Letture di Radio 24. Viaggiare a piedi per entrare in contatto con la natura e ritrovare se stessi. Lo faceva Henry David Thoreau 160 anni fa, raccontando poi la sua esperienza nel libro Camminare, e più recentemente Art Garfunkel, che ha attraversato a piedi gli Stati Uniti da un capo all'altro. Per fuggire ai ritmi frenetici della vita moderna, sono sempre più numerosi quelli che scelgono di mettersi in moto, spesso senza una meta precisa. Non cercateli fra gli appassionati del jogging che ogni mattina, sguardo teso e falcata nervosa, attraversano i parchi cittadini. Escludete anche gli avventurieri del trekking, pronti a decollare per il Nepal, dove, accessoriati come astronauti, conquisteranno le cime dell'Himalaya. I nuovi pellegrini sono altrove, molto più vicino. Sono l'amico che si sposta ovunque, sempre a piedi, e quando gli chiedete se vuole un passaggio, risponde immancabilmente di no. Il collega di lavoro che si è preso un mese per fare il pellegrinaggio a Santiago de Compostela, e quando commentate «chissà che fatica», risponde con un sorriso enigmatico. Eccoli, viandanti del terzo millennio. Silenziosi, discreti, determinati e sempre più numerosi. Decisi a snobbare la velocità per la lentezza, il superfluo per l'essenziale, l'esotico per il consueto. Oltrepassata la soglia della tendenza, il mettersi in viaggio, contando solo sulle proprie gambe, è diventata un'esigenza. Basti dire che nel 2010 hanno camminato verso Santiago de Compostela oltre 270.000 persone e 10.000 sono italiani. Nel 1988 erano 3.500. Ma se Santiago è il pellegrinaggio per antonomasia, i pellegrini moderni camminano ovunque e non è detto che sia la spiritualità a guidarne i passi e neppure che sia l'estate la stagione elettiva. Non a caso dal 3 al 30 ottobre è il periodo scelto per il Walking Festival, migrazioni in terre toscane dove si cammina, come recita il sontuoso programma, nei profumi, nei ricordi, nella storia, nei sapori del mare. E se i viandanti prendono appunti durante i loro viaggi, il mercato editoriale li trasforma in saggi. Solo negli ultimi mesi sono usciti 8 libri sulla gioia del camminare, che nei titoli diventa arte, filosofia, rivoluzione. La voce dei pellegrini echeggia anche su internet, dove nascono siti che si chiamano La Compagnia dei Cammini, Cammina Cammina, Doppio Zero, solo per citarne alcuni. Tutti in marcia senza più fermarsi. «Abbiamo camminato per migliaia di anni, da quando abbiamo conquistato la posizione eretta», ricorda Duccio Demetrio, professore di filosofia, camminatore metropolitano e uno dei primi a scrivere di questi argomenti. «Oggi assistiamo al ritorno di questa modalità naturale. I nuovi nomadi, però, non esibiscono la prestazione, piuttosto ritrovano il sapore del viaggio iniziatico, un po' come succedeva nell'Ottocento con il Grand Tour. Errano per vivere un altro tempo». Per scoprire l'inusuale nel quotidiano. Che la meta finale non sia il vero obiettivo è per il pensiero nomade cosa ovvia. Il traguardo non è arrivare a destinazione, ma ricomporre uno squilibrio. Così si vagabonda in mezzo alla natura, ma con altrettanto gusto si può farlo in città. Scoprire itinerari stravaganti. Lo hanno fatto un anno fa gli scrittori Gianni Biondillo e Michele Monina, affrontando a piedi 100 km di tangenziali milanesi. Impresa così stralunata e indovinata da suscitare innumerevoli elogi online. L'essenziale è mettersi in moto. Poi è lecito, anzi auspicabile, deviare, cambiare direzione. Cosa sarebbe di noi se ci fosse dato camminare unicamente in un giardino o lungo un viale? Si chiedeva già 2 secoli fa il filosofo e viaggiatore americano Henry David Thoreau. Oggi che perdersi è quasi impossibile, grazie al GPS, al satellitare e a Google Maps, tanto più interessante diventa farlo di proposito, permettersi il lusso di smarrire la strada in un mondo dove tutto è pianificato. Siamo trottole che corrono dietro al lavoro, agli impegni. Nel cammino ci si perde per ritrovare la lucidità dei propri pensieri, per effettuare cambi di vita, per vivere il qui ed ora. Afferma Luca Gianotti, escursionista, fondatore della Compagnia dei Cammini e autore di L'arte del camminare. Gianotti organizza viaggi a piedi e un migliaio di persone ogni anno va con lui. Non è obbligatorio andare alla ricerca del mai visto. Camminare è un cercare l'altrove in se stessi, nel tempo lento, nel riposizionare i propri confini, riflette Chiara Saraceno. La sociologa racconta che a Torino alcune scuole hanno dato avvio a una nuova iniziativa. Un educatore passa di casa in casa e raccoglie i bambini per portarli a scuola a piedi. Oggi i bambini vengono sempre trasportati, ma il camminare li abitua a rendersi autonomi, a costruirsi mappe mentali del proprio territorio, e da grandi saranno forse dei camminatori, come me, che con genitori alpinisti amo moltissimo l'idea di spostarmi a piedi da un luogo all'altro. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Daniela Mattalia, Dissociarsi dal caos della vita frettolosa. È l'imperativo di chi ha capito che per ritrovare se stessi bisogna smettere di correre e iniziare a camminare. Da Panorama del 7 settembre. Per risolvere il problema dello spopolamento delle campagne, gli Stati Uniti hanno messo in atto un programma per trasformare i veterani di guerra in cowboys. Mandrie di bovini e verdi praterie, il Nebraska è il beef state d'America. Amo la solitudine di queste terre, commenta Garrett Dwyer, 24 anni, veterano dell'Iraq. Con l'11 settembre ho deciso di entrare nei Marine. Dopo 4 anni e 6 mesi in zone di guerra, Garrett ha deciso di lasciarsi alle spalle l'esercito per diventare allevatore. Circa il 45% dei militari americani viene da comunità rurali, spiega Weldon Slight, preside del College of Technical Agriculture dell'Università del Nebraska. Aree rurali che oggi lottano contro lo spopolamento dovuto all'urbanizzazione. In Nebraska, negli ultimi 10 anni, 78 province hanno perso oltre 40.000 abitanti, mentre 15 aree urbane ne hanno guadagnati 124.000, aggiunge Slight. In questo contesto si inserisce il programma Combat Boots to Cowboy Boots. Aiuta i veterani a reinserirsi nella società sostenendo l'imprenditorialità agricola e allevatoriale con fondi del Dipartimento della Difesa e di altre agenzie. Già nel 2009 il Dipartimento dell'Agricoltura aveva iniziato a offrire prestiti a basso interesse a 100.000 coltivatori all'anno per rimpolpare i ranghi delle campagne. La metà di tutti i farmers, secondo l'USDA, andrà in pensione nel prossimo decennio. E a oggi, conferma Slight, non ci sono i numeri per sostituire chi lascerà l'attività. Così si fanno sotto gli ex militari. Abbiamo 250 veterani coinvolti con un'età media di 28 anni, precisa Michael O'Gorman, executive director di un'associazione che aiuta i veterani a trovare un lavoro nelle aziende agricole. Ma cerchiamo di far conoscere di più questo tipo di programmi. Come dice Garrett, la disciplina imparata nei Marines aiuta in un lavoro che è molto spesso duro. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Camilla Minarelli, Marines e buoi, dal numero di settembre del mensile Il, Intelligence in Lifestyle. Per la gioia dei vegetariani arriva la bistecca sintetica, prodotta con le staminali. Ma costa tanto e non sa di niente. Prelevare pochi grammi di muscolo da un maiale vivo, estrarne pazientemente le cellule staminali una a una, mescolare con fattori di crescita in provetta, agitando il tutto per 6 mesi con una scossa elettrica da 10 volte ogni secondo. La ricetta della carne artificiale non ha un'aria appetitosa, ma apre una nuova frontiera a vegetariani, o almeno a una fetta di essi, popoli affetti da carestia e astronauti diretti su Marte. Così Mark Post, il ricercatore dell'Università di Maastricht in Olanda, che lavora al progetto da un decennio, ha annunciato che la prima salsiccia maturerà fra 6 mesi in una provetta del suo laboratorio. Lui stesso ha ammesso che sull'aspetto c'è ancora da lavorare. La carne artificiale ha l'aspetto flaccido e pallido di un muscolo appena tolto dal gesso. È l'unico che abbia avuto il coraggio di assaggiarne un filamento, un giornalista della TV russa incaricato di preparare un servizio sugli esperimenti di Post, l'ha definita gommosa e in sapore. La prima salsiccia costerà $250.000 perché il mercato dei fattori di crescita è folle al momento. Ma il denaro potrà essere reinvestito, si giustifica il ricercatore, per migliorare il processo produttivo e abbassare il costo delle salsicce successive. Come a volte accade con le specialità gastronomiche, anche la carne è da laboratorio ai suoi estimatori. Nel 2008 il gruppo animalista internazionale PETA ha promesso $1 milione a chi porterà nei supermercati il primo petto di pollo sintetico. Più di 40 miliardi di polli, pesci, maiali e mucche vengono uccisi ogni anno negli Stati Uniti in modi orribili, si legge nel bando. Anche se i vegetariani soffrono meno di cuore, diabete e vari tipi di cancro, non tutti riescono a liberarsi dalla dipendenza dalla carne. Meglio allora rivolgersi a bistecche che non provocano morte e sofferenza. Se gli scienziati riuscissero a creare e coltivare le staminali embrionali degli animali, le bistecche di laboratorio continuerebbero ad aumentare di dimensioni praticamente senza limiti. Le tecniche attuali, invece, permettono solo di lavorare sulle staminali di animali adulti. Queste cellule, anche usando i migliori fattori di crescita, dopo essersi divise una decina di volte, smettono di moltiplicarsi, donde l'aspetto emaciato delle salsicce olandesi e la relativa delusione di posta. Il ricercatore olandese è il favorito, ma non è l'unico a sfruttare le straordinarie facoltà proliferative delle staminali per fini alimentari. Morris Benjaminson, bioingegnere del Touro College di New York, ha scelto la strada del pesce, che rispetto alla carne è più salutare e di più difficile approvvigionamento. Nel 2002 prese dei filetti di pesce rosso naturali, li mise in provetta e riuscì ad aumentare il loro peso del 16%, ottenendo dalla NASA un finanziamento per proseguire nei suoi studi. Lo scienziato organizzò anche una degustazione in laboratorio, friggendo i filetti, accompagnandoli con olio e pane e offrendoli a un panel di giudici. Alle cavie l'aspetto e l'aroma dei filetti piacquero, ma nessuno si sognò di assaggiarli, chiamando in causa la pericolosità dei fattori di crescita impiegati e la mancata approvazione delle autorità di sicurezza alimentare americane. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Elena Dusi «Arriva la bistecca sintetica, è carissima e insipida, ma piace ai vegetariani», da Repubblica, del 2 settembre.